24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. A parte l'umiliazione che consente a Don Mazzi di dire Berlusconi venga qui a pulire i cessi, o quell'altro che dice venga qui a, con i ragazzi della palestra a Scampia, così gli va giù la pancia. È questa la cosa che più, secondo me, lo ha fatto imbufalire. Don Mazzi che possa dire venga qui a pulire i cessi, insomma, va bene tutto. Insomma, o l'altro della palestra, chi era, venga qui a Scampia, così gli va giù la pancia se fa gli esercizi. Sono queste le cose che fanno imbestialire Berlusconi, non avete capito? Sono queste le cose che fanno imbufalire Silvio Berlusconi. Va bene, questa è 24 mattino e riparte una nuova settimana. Pensate, la 30ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Ho sentito Pippo Civati dire: ora la riforma elettorale, poi si vota. Mi ha fatto ridere mezz'ora, è stato straordinario. 30ª settimana decisiva anche per l'abolizione delle province, eh? È questa, sarà quella decisiva? Certamente è quella decisiva, me lo sento. Allora, sono le 6.35, saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia e apriamo il Parlamento, forza! A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Caffè, caffè doppio, triplo, quadruplo, mi sa quintuplo, forse sestuplo anche per Mario Adinolfi, che voglio salutare. Buongiorno, buongiorno, senti che voce squillante. Ma che voce squillante fai? Ti sei svegliato da 7 secondi. 7 secondi, esattamente. Smettila. Però ho già resettato la RAM, vado in un treno. Mario è come me, si sveglia, io suono la sveglia alle 5, dopo un secondo, tac, sono giù dal letto, devo fare le cose. Chissà se è così anche il nostro Paolo Del Debbio, che saluto. Come va? Come benissimo, va, cari amici? Sentite che voce, Paolo Del Debbio, non dorme mai, non dorme mai. Ragazzi, sono momenti duri, sono momenti duri. Allora, Paolo Del Debbio, mi si è incazzato Napolitano, questo è il dato di fatto. Okay. Ha della forza da buttare via. Si è arrabbiato. Sentite cosa scrive oggi di Napolitano Alessandro Sallusti, ci è andato giù leggero. Lei, caro Napolitano, è il capo di una cospirazione, un vecchio inacidito in malafede, indegno di occupare la più alta carica dello Stato, un golpista. Insomma, l'ha presa bene Del Debbio. Insomma, Alessandro Sallusti è uno che ci dà dentro duro, ecco. Sì. E questi sono gli ultimi giorni e bisogna essere duri e durissimi. E la domanda è questa, anche Mario Adinolfi, dà più fastidio a Berlusconi la questione di Napolitano o Don Mazzi che gli dice venga a pulire i cessi? Secondo me è la seconda, è quella proprio che più... No, Napolitano gli brucia proprio, Cioè, Napolitano è la riedizione di Scalfaro, è l'idea che... il palazzo sia sempre stato contro di lui e tutti i palazzi siano stati contro di lui, che non gli abbiano fatto cambiare niente perché volevano farlo fuori, insomma, era materializzazione, oltretutto con lo spettro della galera vera. Sì. È facilissimo, capisco, lo posso capire che non ci sia serenità di giudizio nei confronti di Napolitano. Loro hanno fatto le larghe intese per questo, solo per questo, diciamo, per il paese, quale paese, insomma. L'hanno fatto per non andare in galera, adesso la galera è dietro l'angolo, la questione, la capisco anche dal punto di vista umano, è complicatissima. No, ma è chiaro, ma infatti il retroscena della stampa è questo, Berlusconi che continua a girarsi nel suo palazzo a dire mi vogliono far marcire in galera, ma Del Debbio, ma pare davvero possibile? Io di fronte capisco che si vogliono alzare i toni. Pare davvero possibile, Pare davvero possibile, è possibile sì, cioè che vada in galera, non c'è dubbio che è possibile, perché qualcuno dopo la decadenza può darsi che chieda tranquillamente la carcerazione, o da Napoli, o da Milano, o da qualche parte, quindi il problema, anche la reazione di Berlusconi a Don Mazzi, è che insomma in un momento così, no, voglio dire, ma anche un minimo di uno sta zitto, poi magari glielo dice dopo, ma abbia anche difficoltà, c'è anche un prete, abbi rispetto ad un momento un po' difficile. Dice il rispetto, qua. Il rispetto. E beh, ma su questa vicenda di Berlusconi, dei servizi sociali, sì, chi è che non l'ha invitato? Cioè tutti l'hanno invitato, sì, è diventata... Di Pulici, sì, no, cioè voglio dire, io mi farebbe incazzare anche me, forse farebbe incazzare anche lei. No? Sì, cioè, sì, vabbè, certamente. E forse, e sicuramente ad Inolfi lo manderebbe a fare in culo di sicuro su. Quindi voglio dire, non è che la cosa sia così. Dopodiché, che ci sia un problema, che volevano, che il PDL voleva una conciliazione, no? E che poi la conciliazione si è fatta col fatto che 5 del PDL sono andati al governo e lì è finita tutta la conciliazione, anche su questo non c'è dubbio. Ah beh, sì, infatti... Forse era sbagliato pensare che no, questo è stato l'errore. Ma infatti. Pensa che ci potesse essere la conciliazione, ma che conciliazione di che? Ma no, ma cioè, poi. Conciliazione di cosa? Cioè io non capisco neanche. Figurati se Napolitano interveniva, muoveva un dito nei confronti della magistratura. C'è già c'è da muoverlo per sé, per trattativa di Stato mafia, e mi pare che lo muova anche in modo sostenuto, figurati se lo muove per gli altri. Sì, ma cioè, ci sono anche chi pensano, gli italiani, che la conciliazione cosa voglia dire? Mario, tu l'avevi capito? Cosa voglia dire? Voleva dire che loro... aderivano al governo di larga intesa, sì. Che Napolitano si dava da fare con la magistratura per una soluzione, tra virgolette, stia a sentire che aggettivo che uso, morbida della situazione. Ah, ma ho capito, ma vuol dire ammorbidire le sentenze, cioè se c'è una sentenza che doveva fare? Vabbè, ma insomma, ma lei ha capito che voleva ha capito tutti, anche Adinolfi ha capito, Adinolfi è uno di... Ha capito molto prima, anche prima di svegliarsi. Adinolfi anche prima di Napolitano l'aveva capita questa, della conciliazione. Mario, allora che succede? Sarà più deluso Berlusconi, secondo te, da Don Mazzi, da Napolitano o da Alfano, che dice io mercoledì non vado in piazza, guardiamo avanti, Forza Italia è il passato. Ma Alfano, io credo che l'operazione Alfano sia un'operazione politicamente intelligente anche dal punto di vista di Berlusconi, quindi devo capire ancora bene quanto ci sia il gioco delle parti e quanto ci sia di ostilità reale. Ora che Alfano stia puntando a prendere l'eredità del centrodestra tutto con questa operazione è sicuro. Credo che ci sia anche l'intenzione di Berlusconi di coprire il campo meglio, come vogliamo dire, insomma, in eventuali showdown elettorali, perché io resto convinto che finché esiste Berlusconi e ha voglia, diciamo, di impegnarsi politicamente con una forza interdittiva, insomma, che sia in Parlamento per evitare che succeda il tracollo anche sulle aziende, sì. È Berlusconi il vero collettore dei voti, insomma. Poi Berlusconi aggiunge una serie di spezzoni alla sua coalizione. Secondo me l'operazione di spacchettare i governativi, se fosse politicamente intelligente, ispirata direttamente da lui, non me ne meraviglierei. Ma Berlusconi è deluso, eh. Oggi c'è Renato Brunetta, scrive sul giornale a dire: caro Alfano, vieni mercoledì alla manifestazione. Da te proprio non ci aspettiamo. Che è deluso. Pare che Berlusconi dica: l'ho messo lì io, è ministro per me. Ma se ti serve per prendere i voti dei, diciamo così, moderati non berlusconiani, è meglio che non venga alla manifestazione. È meglio che non venga. Anche dal punto di vista di Berlusconi gli serve così. Ma in questo momento, cioè, forse questa è una cosa più a lungo respiro. In questo momento mercoledì è chi sta con me, chi sta contro me, cioè, insomma, un po'. Vabbè, sentite ancora Berlusconi sulla questione dei servizi sociali, l'appello a Napolitano, che poi è stato ieri sorpassato da una nota durissima del Quirinale. E dico che il Presidente della Repubblica non dovrebbe avere un attimo di esitazione a dare senza che io la richieda, perché io ho la dignità di non richiederla, un provvedimento che cancelli di fronte all'Italia e al mondo questa ignominia dell'affido ai servizi. Anche lì, senza che io la chieda, ma Del Debbio, però ci sono... allora, oggi fa sapere il... Vabbè, questo è un errore, dai, senza che io la chieda è un errore evidente, no? Anche perché la legge dice così, e quindi se non la richiedo non gliela dà. Sì, però la clemenza... È come quando è successo con Cosoli, con... Sì. soffri, no? Cioè, no, certo, però il provvedimento di grazia in genere, almeno oggi riconta anche Repubblica, il Corriere, viene dato, sì, a una persona che intanto rispetta una sentenza della magistratura, cioè se uno non la rispetta, allora dice, sì, ti si dà la grazia, perché... Grazia. Come aveva detto l'avvocato Coppi, no? Ma sì, infatti, cioè, no, che se si chiede magari ci sono le opportunità che te la dia, ma se non la chiedi è un trappo da... No, infatti. Allora mi veniva da fare la battutaccia, ma non me l'idea. No, e qual era sta battutaccia? No, niente, niente, andiamo avanti. Non lo so, si tiene le battutacce di Nolfi, qua non si capisce. Ma io sarò più berlusconiano di Del Debbio, secondo me non doveva chiederla, che la chiedi a fare? Insomma, tanto lui gliela davano. Ah, cioè, era peggio, era peggio, la chiedeva e quello non gliela dava. Non gliel'avrebbero mai data la grazia, cioè, il figlio del Quirinale si trovava con le manifestazioni sotto la piazza perché aveva dato la grazia a Berlusconi, cioè... E Berlusconi non ha capito una cosa: Berlusconi si è infilato nel manico delle due grandi scuole politiche di questo paese, la scuola comunista di Napolitano, la scuola democristiana che è incarnata perfettamente nel Rigoletta. Queste due scuole gli hanno detto, proprio tipo Pifferaio Magico, vieni, facciamo le larghe intese, poi vediamo una parola, una cosa, tanto siamo la situazione. L'hanno ovviamente cucinato a brodoletto. Ma nessuno mai al Quirinale si è sognato di dare la grazia a Berlusconi. Ma è Berlusconi che si va Del Debbio, Berlusconi che si fa cuocere a fuoco lento, non ci posso credere. Dai. Guarda, si è valutato non tanto la scuola comunista, come dice Adinolfi, che nonostante l'ora, diciamo, presto del mattino è di una saggezza addirittura biblica, ma ha detto... ha sottovalutato i democristiani sono come le goccine, quelle piccole, piccole, piccole, piccole, quelle cinesi, quelle cinesi. E ti fanno fuori, cioè non c'è dubbio, perché poi hanno questa capacità, questa pazienza, cioè questa carità. Il contatto della, nel democristiano, il contatto della natica con il seggiolone, no? Provoca delle virtù di pazienza, di attesa, di cose che neanche gli indiani, capito? Mm-hmm. Cioè, se stanno lì, ti ammazzano, è come sulle riforme, no? L'hanno fatto per anni, hanno detto che ora siamo al tornante decisivo. Quante volte siamo al tornante delle riforme? Al tornante. Ma deve essere un tornante lungo, non so, che torni su te stesso e continui a girare. Più di 360 gradi, deve essere un cerchio di 9000 gradi. Non so com'è. Sì, tornanti della DC. Andiamo a sentire un attimo le informazioni sul traffico. Poi entriamo con la segreteria telefonica, tanto amata da Marione Adinolfi. Tra poco. 24 mattino. Buongiorno, io chiamo a Imperia, dove dovremmo vivere di turismo, invece viviamo di votificio, migliaia di persone che sono state assunte da tutte le parti, partecipate, regione, provincia, comuni, è una cosa vergognosa. Enrico Letta, presidente del Coniglio, con quella faccia da sagrestano. Se guardandoti nudo allo specchio ti accorgerai di avere quattro palle, non ti inorgoglire. È Matteo Renzi che da bravo democristiano ti sta sodomizzando. Alessandro, ma che fine hanno fatto i grandi saggi, questo consiglio dei grandi saggi che sta dietro il governo? Ma dove sono? Cosa stanno facendo? Ci sono ancora? Sono un'italiana orgogliosa di esserlo e mi vergogno di tutte le persone che telefonano a questa segreteria lasciando quei messaggi osceni e rumorosi che non ci fanno onore, e mi stupisco che voi le mandiate in onda. Mi è sembrato veramente vergognoso il suo modo irrisorio di riferire un articolo relativo a quanto ha detto la Presidente della Camera. A me sembra banale e ovvio che le ragazze impongano ai genitori un uguale trattamento. I figli si incominciano a educare, i figli maschi, fin dalla nascita, alla parità e al rispetto della donna. Possono i tedeschi con la Merkel venire qua in Italia e fondare un partito tipo Forza Germania per l'Italia per dare un governo decente a questo paese? Eccoli lì, quelli che vogliono la Germania in Italia. ha sentito del Debbio, c'è uno che sulla Democrazia Cristiana aveva una teoria abbastanza, come dire. Sì, ho sentito, sì. Vabbè, insomma, ragazzi, ognuno sai la figura come crede, ma insomma, voglio dire. Vabbè, se la prendono fino alla realtà. Sì, se la prendono anche perché. Ma che è il tono irrisorio? Ho sorriso un po' della Boldrini che dice i bambini devono essere educati a fare i camerieri da piccoli. Non lo sa Laura Boldrini, forse non ha figli, non lo sa che già è così. Che già è così, che mio figlio Mattia è contento quando all'asilo fa il cameriere. Cioè, che male c'è, voglio dire. È la presidente della Camera che deve dire educateli a fare i camerieri e non stare. No, ma stava parlando della sua infanzia, forse. No, sì, certo, ma poi ha detto si educano così. Lei a fare la cameriera, ma insomma lasciamo perdere ora. No, lasciamola stare, no, per carità. Ora parla anche della Boldrini a quest'ora, mi pare eccessivo. No, va bene, va bene. Allora parliamo di occuparsi di Berlusconi. Parliamo di Ignazio Marino. Avete visto che gli è successo? Che gli è successo a Adinolfi? Gli ha dato una gomitata in consiglio comunale, c'ha il bernoccolo. Ci sono le foto di Marino che si tiene così. Gli è andato... Siamo becchiati questa, cioè, devo dire che non so com'è la poltrona di sindaco di Roma ti fa diventare deficiente, secondo me. No, come deficiente? No, ma perché? Beh, dai, cioè, ci abbiamo delle storie. Questa città è veramente incredibile. Questa città è veramente incredibile. Cioè, non... dalla chiusura dei fori con una finta chiusura, cioè il primo a... Ma gli è andata una gomitata. Ho visto le immagini, per carità, no, insomma. Se pure andare a beccare, insomma, avrei evitato di, no? Ho capito, cioè, abbastanza, cioè, paradossale, ovviamente. Stanno discutendo del bilancio. Il bilancio, commissariano la città, cioè abbiamo sì 800, cioè un debito infinito. La città di Roma stampava i biglietti falsi, l'ATAC. È veramente qualcosa di. Oh, allora invece di prendertela con i napoletani, con no, tutti... me la prendo con la signora, non si dice irrisorio, dice irridente. Ah, oh. Dammi il nome di telefono, che sono come al solito gli ascoltatori ciucci che non sanno che dire. No, Renzi e Letta sono democristiani, non andranno uno contro l'altro, faranno un accordo perché sono democristiani. Ecco. Signora mia, lei non sa di che parla. Ecco. Al solito tutti quelli che ecco, fanno del Debbio, qua c'è di Adinolfi che mi insulta gli ascoltatori. Gli ascoltatori di Milan sono ciucci. No, è questo il problema. No, sono ciucci, no, vero, non studiano, non capiscono i politici, è una tragedia. No, del Debbio, mi salvi. Sì, qua. No, ma non c'è problema perché quelli lasciano i messaggi durante il giorno e non ascoltano la mattina. Ah, ecco. No, che succede a Marino del Debbio? Ma ha ereditato questo debito, no? E quindi che deve l'ha fare? L'ha fatto, questo è chiaro. No, chiaro. Che non l'abbia fatto è chiaro, che non l'abbia fatto solo Alemanno è altrettanto chiaro, è tutto chiaro, ma non se ne esce, perché poi alla fine io di tagli significativi non ne vedo. Vedo che il governo è intervenuto, non è che i soldi che ha dato al Comune di Roma derivino da alcuni tagli, no? Ma derivano certamente da un aumento della pressione fiscale, e quindi siamo sempre alla solita. Che le devo dire, Meitan? Io non ho alcuna speranza. Quindi. Nessuna speranza, ma commissariamo, no, anche il Comune. Anche perché ho visto, Roma. Ti visto l'articolo di Rizzo su quanto ci costa come no? L'inutile ACI su Cliani? Sì, infatti. 191 milioni. Ieri lo leggevo. Poi c'è quello, però non si può toccare. Che dobbiamo fare? Del Debbio io non so come faccio a pubblicizzare stasera Quinta Colonna, poi io stasera anch'io sono in onda col mio piccolo funambolo su 7 gol. No, era una scusa per pubblicizzare il mio. Ci sarà del Debbio, ma soprattutto Alessandro Mina, e durante le pubblicità potete girare su del Debbio su Rete4, va bene? Più democristiana di così. Più democristiana di così anch'io non potevo farla. Grazie, mi devo fermare, tempo di giornale radio. Grazie a Paolo Del Debbio e Mario Adinolfi, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, pronti alla lettura dei giornali. Dai che è lunedì, inserite lo schema Allegri, dai, forza! e andate avanti, andare a lavorare. E, che dire, oggi noi ci occuperemo di che cosa si può giudicare uno Stato anche da alcune vicende come questa. Secondo voi è possibile che un sindaco di un comune sciolto per mafia si possa ricandidare a sindaco e venire eletto? Sì, è possibile certamente in Italia. È successo, racconteremo e partiremo da qui a raccontare il rapporto tra lo Stato e la criminalità organizzata oggi alle 8:15, non il rapporto nel senso tra i legami tra Stato e criminalità organizzata, ma tra uno Stato, lo Stato italiano, tra l'essere tutti parte di questo Stato e vivere in un paese in cui succedono delle cose perlomeno discutibili. Racconteremo la storia del comune di Nardo di Pace, partiremo da lì non solo con il sindaco di Nardo di Pace ma anche con Lirio Abbate, inviato dell'Espresso, con l'ex sindaco di Monasterace, provincia di Reggio Calabria, Maria Carmela Lanzetta, questo alle 8:15, tra un'ora, e allora andiamo a sfogliare i giornali. È lunedì 25 novembre e intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre con il saldo IMU, aumenti record su seconde case e capannoni. Questo è il titolo poco incoraggiante che c'è oggi sul Sole 24 Ore. Poi la vicenda Berlusconi che in settimana terrà banco politicamente. La nota del Colle dopo le accuse di Silvio Berlusconi e l'apertura dei vari giornali, Corriere della Sera, ora si rispetti la legalità, è un virgolettato, è l'alt di Napolitano, per Repubblica Berlusconi lo schiaffo del Colle, il Messaggero Napolitano boccia la grazia, per il Giornale Napolitano ricatta, il golpe è servito. Per il Secolo XIX, grazie all'ira di Napolitano, l'unità Berlusconi, stop del Colle, mentre La Stampa apre sull'accordo sul nucleare con Teheran, ora il mondo è più sicuro, Obama dopo la storica intesa con l'Iran a Ginevra. Queste alcune delle aperture dei giornali, voglio però partire da questa notizia che trovate sul Corriere della Sera, pagina 25, sono le donazioni di Mister S. Lunga. Bernardo Caprotti, 88 anni, patron dell'S. Lunga da sempre, un imprenditore definito come burbero, un imprenditore sui generis, certamente un imprenditore che rarissimamente parla. Le donazioni del signor S. Lunga. Dal 2002 Bernardo Caprotti ha regalato 70 milioni di euro ai parenti e 10 milioni di euro all'ex segretaria. 10 milioni di euro. Mario Gerevini sul Corriere. Ecco caro, questo assegno da 4 milioni è per te, una donazione. Tutti vorrebbero uno zio così. O un papà che un giorno ti chiama e ti dice dai andiamo dal notaio che ti regalo 8 milioni di euro. O un marito che a un certo punto ti fa trovare sul conto in banca 18 milioni in CCT. Se poi sei la segretaria e il capo ti dona 10 milioni di euro cash, allora benedici ogni singola mattina che ti è suonata la sveglia nei 40 anni di lavoro. È successo davvero. Bernardo Caprotti, 88 anni, Mister S. Lunga, in 10 anni dal 2002 ha distribuito oltre 80 milioni con atti di donazione regolarmente registrati dal notaio Giovanni Ripamonti e dall'Agenzia delle Entrate. Gli atti dicono nella formula di rito che i beneficiari accettano la somma di euro tot con animo grato, grato, molto molto grato, c'è da dire, tutti i soldi e proprietà prelevati dal patrimonio personale dell'imprenditore che guida l'azienda con 6,8 miliardi di fatturato, 20.000 dipendenti e utili per 238 milioni, questo nel 2012, che silenziosamente si è adoperato per sostenere con somme rilevanti enti di assistenza e iniziative culturali. Queste invece sono le donazioni, scrive il Corriere, fatte ai familiari, anche i figli con i quali poi è entrato in rotta e con loro non ha rapporti, figli del primo matrimonio Violetta e Giuseppe, ma Giuseppe il primogenito ha ricevuto un regalino da 2,82 milioni 11 anni fa, mentre Violetta l'altra figlia prima che esplodesse il contenzioso due anni fa aveva ricevuto 7,5 milioni di assegni circolari, oltre al 100% di una società proprietaria nel cantone svizzero, in un cantone svizzero di una grande villa di famiglia e del terreno intorno. E poi c'è il nipote, 4 milioni di euro, la segretaria, l'ex segretaria Germana Chiodi, ex collaboratrice, alla fine della carriera 10 milioni di euro di donazioni. Vabbè, oh, sono cose che capitano. Insomma, non tantissimo, però capitano a Bernardo Caprotti. Invece cosa è successo ieri in Consiglio regionale, che in Consiglio regionale, Consiglio comunale a Roma? Si discute il bilancio e c'è un buco da 815 milioni di disavanzo che entro il 30 novembre in qualche modo deve essere ripianato, o meglio c'è una manovra da approvare entro il 30 novembre. Il Comune di Roma rischia il collasso, rischia il default, rischia il commissariamento, e quindi gli animi sono molto accesi in Consiglio Comunale. Ma ieri sono arrivati gli schiaffi e anche una gomitata al sindaco di Roma, Ignazio Marino. Le immagini, già qualcosa su YouTube si trovano, schiaffi in Campidoglio, una gomitata a Marino col bernoccolo. Ho un bernoccolo in testa, non so chi sia stato, non sono intenzionato neppure a conoscerlo. In realtà tutti guardano all'esponente dei Fratelli d'Italia Dario Rossin, che si era avvicinato ai banchi della presidenza dell'Aula per strappare il microfono al presidente Mirko Coratti del Partito Democratico, ma siccome vicino nei pressi c'era Marino, Rossin dice nel gesto, nel muovermi è partita una gomitata a Ignazio Marino, involontaria, mentre Marino l'ha definita non involontaria. Qui c'è anche la disfida per capire se sia volontaria o no questa gomitata. Comunque il Messaggero dedica una pagina a questo, a pagina 14, Roma rissa sul bilancio, Marino colpito alla testa, l'articolo di Mauro Evangelisti e Maria Lombardi a pagina 14, per fortuna che di domenica bisognerebbe essere più rilassati, a Roma in Consiglio Comunale la seduta straordinaria per approvare il bilancio di previsione 2013 riserva una scena pronta per YouTube. Un consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Dario Rossin, si alza dal suo posto, si scaglia contro il posto del presidente del Consiglio Comunale Mirko Coratti per strappargli il microfono, ma colpisce con una gomitata alla testa il sindaco Marino che era seduto sotto il presidente. Arriva un consigliere di SEL e anche lui si prende una sberla. Vabbè, insomma, volano sberle, pugni e gomitate, no, pugni no, ma insomma il clima nel Comune di Roma è questo, o meglio a livello politico. D'altronde incombe questo rischio default per 815 milioni di euro di disavanzo ereditati certamente dalle giunte del passato, e che ora il Comune di Roma si trova a dover gestire entro la fine di novembre. Dunque entro la fine di questa settimana c'è da approvare questa manovra. Indovinate come andrà a finire? Aumenteranno le tasse, cari amici di Roma? Chi lo sa? Intanto andiamo alla pubblicità. 24 mattino. Quando sono le 7:34 minuti, eccoci, tornate a leggere i giornali. La notizia politica, non solo del giorno, ma certamente della settimana che terrà banco, è la vicenda della decadenza di Silvio Berlusconi. Sapete che sabato Berlusconi ha tuonato anche contro il Quirinale dicendo mi dia la grazia, anche se io non la chiederò mai, ho la mia dignità. Ma insomma, fermi questa ignominia, Berlusconi ha detto anche vi rendete conto, c'è Don Mazzi che mi dice che devo andare a pulire i cessi, o qualcun altro che mi ha detto venga a Scampia a fare ginnastica così perde la pancia, insomma mi devo sottoporre a questo ridicolo. Ebbene, 24 ore di silenzio, poi ieri è arrivata la nota durissima, la dichiarazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Grazie all'alta di Napolitano al Cavaliere, così l'articolo del Corriere della Sera, pagina 8, Marzio Breda, un omicidio politico, un colpo di Stato, così aveva definito Berlusconi il voto di Palazzo Madama sulla decadenza, una chiamata alla piazza fondata su queste parole, una vergogna l'applicazione della pena inflitta, un'ignominia, un'umiliazione ridicola. Insomma, Giorgio Napolitano, dopo queste parole, ha atteso 24 ore e poi è arrivata la replica. Ha voluto verificare le reazioni dei partiti, poi ha fatto conoscere la sua reazione durissima, nella quale definisce di estrema gravità, perché privi di ogni misura nei contenuti e nei toni, i giudizi e propositi espressi dall'ex premier, gela l'ipotesi di un provvedimento unilaterale di clemenza, spiegando che non si sono create via via le condizioni per un suo eventuale intervento sulla base di quanto prevedono la Costituzione, le leggi e i precedenti, vale a dire, scrive il Corriere, giusto per fare un paio d'esempi, Berlusconi non ha deliberatamente accettato il verdetto della Suprema Corte né ha mostrato rispetto per la magistratura, due precondizioni indicate dal comunicato del Quirinale del 13 agosto per rendere praticabile l'esame per la concessione della grazia. Anzi, aggiunge Napolitano, nulla è risultato più lontano del discorso tenuto sabato dal senatore Berlusconi dalle indicazioni e gli intenti che in quella dichiarazione erano stati formulati. Insomma, una durezza molto molto intensa quella del comunicato di Giorgio Napolitano. Ed ecco che i retroscena abbondano e abbonderanno da qui in questa settimana. L'ex premier si sfoga coi fedelissimi, adesso è chiaro chi è il regista di tutto. Così Lorenzo Fuccaro sul Corriere della Sera, pagina 9. Silvio Berlusconi vive con angoscia queste ore che precedono il voto del Senato sulla sua decadenza. Ritiene che in Italia sia a rischio la democrazia e la libertà, così ha detto ai suoi collaboratori. Berlusconi parla delle falsità sulle parole mai dette sul conto della Merkel, i sorrisini tra Sarkozy e la cancelliera, nel 2011 poi la chiamata di Monti e di Passera. Insomma, pare che in questi giorni stia rivivendo un po' tutti questi anni, per dire, insomma, una sorta di complottone nei miei confronti. Tra l'altro oggi Berlusconi farà una conferenza stampa e fa sapere tutti i giornali, il Corriere della Sera in questo articolo di Fuccaro, presenterà dei documenti che verranno resi di dominio pubblico, documenti secondo i quali Berlusconi dice sono carte molto chiare che dicono che io non ero alcun socio occulto di Frank Agrama e quindi quella sentenza nei miei confronti è totalmente ingiusta. Anche per Ugo Magri sulla Stampa, pagina 7, il cavaliere cede allo sconforto, questo è il titolo, mi faranno marcire in galera. Berlusconi è in uno stato d'animo disperato, scrive la Stampa, agli amici rimasti fedeli, quelli che lui definisce i superstiti, confida, mi faranno marcire in galera e quando ciò avverrà vi ricorderete della mia previsione. Racconta anche Ugo Magri di queste carte che verranno rese note oggi e che sono già state guardate da Capezzone, definite da lui clamorose, per ribaltare, anche se la sentenza è definitiva, ma ribaltare quello che secondo l'ottica di Berlusconi nel giudizio degli italiani l'idea della condanna subita. Anche per Repubblica l'altro lato del colle sorprende Silvio, non mi costringerà al silenzio e ora punta sulle carte americane, queste carte che verranno svelate oggi. Il più duro però nei confronti di Giorgio Napolitano è Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Oggi guardate come lo dipinge sulla prima pagina del giornale nel suo editoriale, il titolo è Napolitano ricatta del giornale. Ebbene, sentite Sallusti, perché cosa dovremmo stare attenti, presidente Napolitano, che passa le minacce, e cioè chiunque vorrà manifestare contro la decadenza di Berlusconi stia ben attento ai modi e alle parole. Cosa succederà a chi scenderà in piazza mercoledì, caro presidente? La galera, il fermo di polizia, la schedatura? Ecco, allora si accomodi, perché lei è il capo di una cospirazione che sta cercando di sovvertire la volontà popolare. E sentite poi cosa dice Sallusti di Napolitano. Lei è un vecchio, inacidito, in malafede, indegno di occupare la più alta carica dello Stato. Ha il pallino di zittire i cittadini. Le ricordo che ha sulla coscienza migliaia di ungheresi trucidati dai russi. Lei, per scalzare Berlusconi, ha comperato prima Mario Monti con la carica da senatore a vita, facendolo pagare a noi finché campa. Poi ha comperato un pezzo della dirigenza PDL, quello più debole, compromesso e ricattabile. noi non ci faremo intimidire, lei è un golpista. Ecco, questi sono i toni che Alessandro Sallusti oggi indirizza al capo dello Stato Giorgio Napolitano. Staremo a vedere come va a finire. Maria Stella Gelmini, intervistata da Repubblica a pagina 4, dice: la libertà di opinione non viola la legalità e tenteremo fino all'ultimo l'alt alla decadenza e dunque tutti in piazza mercoledì. Questo è il clima. Chi non andrà in piazza è Angelino Alfano. Ieri ha fatto una serie di interviste e oggi i giornali tutti fanno notare questa frattura. Alfano, niente piazza e patto con Letta. Pagina 5 del Messaggero, Claudio Marincola racconta come il vice premier rispedisca al mittente l'invito di Forza Italia a manifestare per Berlusconi mercoledì. Io non sfascio il paese e anzi propone al premier e a Renzi un accordo di governo su 5 punti per il 2014 a partire dalla dalla riforma elettorale. Non l'ho ancora detto, siamo all'inizio della 30ª settimana decisiva per la riforma elettorale. Ecco, l'ho detto. Così come della 30ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Insomma, un Alfano che, nonostante l'invito di Renato Brunetta oggi in prima pagina del giornale, forza amico Alfano, vieni mercoledì, ti coinvolgo come presidente di Forza, dei deputati di Forza Italia, il tuo affetto a Berlusconi, al di là delle dichiarazioni senz'altro sincere ma retorico, diventerà atto politico partecipando alla manifestazione di protesta contro la ferita alla democrazia e al diritto che si compirà con la decadenza. Ma Alfano pare non voglia sentirci da quell'orecchio. Prima delle questioni PD voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, eccoci qua. Buongiorno, reduce buongiorno. Da un brillante pareggio della sua Inter, come un brillante pareggio per il mio Milan, dunque pari e patta, è ripartito il campionato. Ah, ecco. Caro... non mi sembrava così brillante, però forse ho sbagliato, quello... ho visto delle altre cose. Quello dell'Inter? Un altro campionato. No, quello del Milan. Ah, però... ecco, vabbè, ma no, perché? Perché abbiamo tenuto a debita distanza Livorno e Catania, quindi a noi va bene così. Allora Mauro, sul Sole 24 Ore che c'è? E sul Sole 24 Ore invece ci sono squadre che crescono forte, come l'IMU va fortissimo, perché abbiamo fatto due conti, cioè Giovanni Parenti, Cristiano Dell'Oste e gli altri colleghi hanno fatto due conti per le imprese, negozi, capannoni eccetera, rispetto all'ICI ci sono aumenti medi del 60-62%, quindi diciamo che se fosse tradotto in punti in classifica non sarebbe niente male, no? Abbastanza. Abbiamo fatto insomma questi conticini, poi c'è un'altra, un'anticipazione, scusate, del rapporto promo PA che segnala come ormai un quarto delle richieste di credito vada per pagare le imposte, specialmente del fisco locale. Quindi insomma cose, diciamo, non bellissime, non gradevolissime, ma ohimè, lo dicono i numeri. Poi no, per carità, c'è una guida al nuovo apprendistato, molto interessante, l'apprendistato è stato riformato, tutti ci aspettiamo molto per appunto poter far ripartire un po' l'occupazione, dare un po' di ossigeno all'occupazione, 4 pagine molto ben spiegato, molto ben curato, insomma, per vedere di offrire qualche opportunità specialmente ai più giovani. Questo sì. Mi ha anche colpito, Mauro, tutta questa guida per evitare le truffe via SMS, via mail agli italiani. State attenti, si chiama phishing, no? sì, si chiama phishing, ma il termine inglese non deve essere assolutamente considerato amichevole. Sono quelle mail dove ti dicono sì, che c'è uno zio della posta, devi entrare sì, assolutamente nel tuo conto corrente eccetera. A volte sono riconoscibili, c'è un italiano un po' stentato, sì. Altre volte invece sono fatte meglio, lo spieghiamo appunto nelle nostre pagine di Risparmio e Famiglia, escono tutti i lunedì, ci sono anche un po' di consigli per appunto stare attenti. Sì, perché io mi sono sempre chiesto, Mauro, ma come si fa a cascare in questo? E invece sono tantissimi italiani che cascano in questa rete. Guarda, nell'inchiesta che hanno fatto i colleghi di Plus che curano queste pagine, poi emergono anche dei phishing, cioè delle mail, degli SMS fatti molto bene, non certo. C'è la canonica truffa, insomma, improponibile, la vendita del Colosseo, della Fontana di Trevi, ecco. No, è chiaro. Sono anche cose molto curate, uno si aspetta che veramente sia successo qualcosa sul suo conto e sai, poi col conto online magari c'è chi è più abituato, chi è meno abituato. Comunque, quindi... c'è la guida per stare attenti a questo tipo di truffe. Intanto in questo momento proprio ripassano il gol del Bologna, ma ti giuro, sulla 7. Però vabbè, ma casualmente, cioè, mi hai chiamato adesso proprio che... No, stanno passando tutti i gol, ma in questo momento stava... Ho capito, stava non stare... chiaramente, però il calcio, diciamo, cioè tutti i gol dei primi in classifica sì, sono passando. Va bene, caro Mauro, ci troviamo domani. Domani c'è la Champions League. Ricordi, Celtic e Milan, visto che noi la vinceremo quest'anno, è sicuro al 100%. E allora, grazie, a domani. Mauro Meazza. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. No, vi segnalo solo che sul Partito Democratico invece ci sono tanti articoli, ormai è sempre più vicina la, l'8 dicembre, no? Il giorno in cui si deciderà anche il segretario del PD, il nuovo segretario. I tre sfidanti, vale a dire Renzi, Cuperlo e Civati, si sono in qualche modo presentati ieri alla convenzione. Visto che ogni candidato ha presentato il proprio programma, c'è un retroscena interessante di Goffredo De Marchis su Repubblica, con il premier Letta che dice: i toni si alzano all'interno del partito, però non li temo perché il premier punta sui gruppi parlamentari. Questo è il problema, secondo anche il Corriere della Sera, nel retroscena di Maria Teresa Meli, per Matteo Renzi. I gruppi parlamentari, vale a dire, non ha la maggioranza del controllo dei parlamentari cosiddetti renziani. La maggioranza sono infatti lettiani. Diamo uno sguardo più allargato. È una giornata importante a livello internazionale perché dopo mesi di trattativa si è arrivati a un accordo che è un primo passo per il controllo del nucleare in Iran. Nucleare iraniano, il grande compromesso, titolo al Corriere della Sera, pagina 5. Dopo 4 giorni di colloqui, ma 10 anni di tensioni, scrive Guido Limpio, gli iraniani hanno raggiunto un compromesso con rappresentanti di USA, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania e Unione Europea, un'intesa storica, a prescindere da quale sarà il seguito. È un primo passo, così lo ha definito Barack Obama. Ora Teheran accetta che cosa? L'interruzione dell'arricchimento dell'uranio sopra il 5%, la diluizione delle scorte dell'uranio al 20%, il divieto di creare nuove centrifughe, lo stop a nuove attività nel reattore di Arak e le ispezioni a sorpresa da parte degli ispettori internazionali. In cambio l'Iran avrà l'accesso a fondi per 4,2 miliardi di dollari congelati in banche straniere, ma anche la sospensione di alcune misure che colpiscono il mercato dell'oro, dell'auto, dei combustibili e dei metalli preziosi. Insomma, in totale l'Iran potrebbe ricavare circa 7 miliardi di dollari da questo accordo. Ovviamente c'è chi si abbandona all'entusiasmo, c'è chi invece dice è un errore storico, come fa il premier israeliano Netanyahu, la rabbia a Gerusalemme, anche se l'ex presidente israeliano Shimon Peres si smarca. Obama ha chiamato proprio Netanyahu per tranquillizzarlo, mentre in un'intervista al Corriere della Sera il ministro degli esteri Emma Bonino dice: è una chance per tutto il Medio Oriente, ora occorre agire però con molta prudenza. Insomma, non che questo sia l'accordo che pone fine a tutte le problematiche, ma è un primo passo, questo certamente sì, bisognerà vedere come verrà implementato nei prossimi 6 mesi. Rimanendo all'estero invece, noi ne avevamo parlato in un'altra trasmissione di recente, è stato bocciato il referendum che ieri era proposto in Svizzera, denominato 1-12. In questo referendum, se fosse passato, si stabiliva che in qualunque azienda nessuno potesse guadagnare 12 volte più di nessun altro. Insomma, la massima paga dei top manager non poteva superare di 12 volte quella delle persone meno pagate all'interno della stessa azienda. Questo referendum però è fallito, era la proposta dei socialisti, seppellita da una valanga di no. I no sono stati il 65,3%, c'è chi la pone così: hanno vinto i paperoni, niente tetto ai maxi stipendi. Questo per esempio è il titolo di pagina 5 del Giorno: bocciato il no, bocciato col 65% di no, il salario equo per i manager. Anche la stampa svizzera non passa al taglio ai maxi stipendi dei manager, e anche il Corriere: la Svizzera salva i top manager, niente tetto ai super stipendi. I maligni immagineranno adesso il signor Severin Schwan, amministratore delegato della Roche, multinazionale farmaceutica, intento a strappare champagne per festeggiare il salvataggio del suo compenso da 15,8 milioni di franchi, circa 12 milioni di euro. I suoi concittadini svizzeri infatti hanno bocciato il referendum che voleva stabilire il tetto massimo degli stipendi per banchiere top manager non oltre 12 volte il salario di un dipendente. Lui percepisce quanto 261 suoi sottoposti, così i colleghi di Nestlé, UBS e altri colossi dell'economia elvetica. Hanno vinto i no, però, perché si temeva che le grandi aziende potessero emigrare, no, con il top management. Vabbè, c'è anche la Gazzetta. Sì, c'è anche la Gazzetta. Ah. Magico Llorente, la Juve in vetta. Vi piace il tono che ho assunto? No, Peter mi dice la Prosesto, pure la Prosesto ha perso, mi devi innervosire davvero, tra l'altro nel confronto proprio al vertice contro la propria Vicenza, 2-1 che ha vinto grazie a un calcio di rigore peraltro, quindi insomma sì, vabbè. Miriam Lucchetti mi fa sapere che Cantù di basket ha vinto, vabbè, ormai siamo al prendila qualunque e va bene così. E vabbè, comunque giornata di calcio pessima. E siamo al momento però conclusivo della rassegna stampa, quello dell'articolo più inutile scovato sui giornali, il momento della carta costa. Oggi stravince, trionfa, indiscusso il Giornale con Nino Materi, un'intera pagina, pensate, corredata di foto per quel titolo, quell'album della nostalgia dove tutti tornano bambini, è la nuova moda insieme al selfie, ve lo ricordate il selfie? La nuova moda virale di fotografarsi 20 anni dopo, uno fa la foto di quando aveva, c'è una foto di quando aveva 3 anni e si fotografa a 23 anni, c'erano 3 che avevano una foto a 5 anni e a 25 anni, ma chi se ne frega dedicare una pagina a questo, la stessa posa a 20 anni di distanza, con qualche differenza: il biberon diventa una birra e il bimbo che giocava adesso è diventato un obeso. Ma chi se ne frega, chi se ne frega. La carta costa e il Giornale Radio arriva 24 mattino alle 8 e 19 minuti in punto. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, io per parlare del tema che vogliamo approfondire oggi voglio fare e partire da una domanda. La domanda è questa: secondo voi può accadere che un comune venga sciolto per infiltrazioni mafiose dal Ministero dell'Interno e poi quando si va a rivotare venga eletto lo stesso sindaco che era capo del comune quando è stato sciolto? Beh, la risposta, ve lo dico io, vi aiuto, è sì. Sì, può succedere, può accadere, è tutto legale. Magari pone delle considerazioni che vogliamo fare, vogliamo partire da qui per raccontare quello che succede a Nardo di Pace, che è un comune di poco più di 1300 anime in provincia di Vibo Valentia, siamo dunque in Calabria, e ne voglio salutare il sindaco Romano Loiello. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, con noi c'è anche Lirio Abbate, che è inviato dell'Espresso. Buongiorno Lirio. Tra l'altro Lirio Abbate ha scritto un libro edito da poco, si intitola Femmine ribelli, con un sottotitolo anche molto, molto più efficace, Lirio, no? Come le donne salveranno il paese dall'andrangheta. Allora, si spera, dici. Allora, intanto, sindaco Loiello, ci aiuti a capire questa cosa. Lei era sindaco anche il 13 novembre, credo, del dicembre del 2011, quando fu sciolto il suo comune, è così? Sì, certo. Perché tra l'altro nella operazione della DDA di Reggio Calabria sono stati condannati, credo in primo grado, 2 parenti dell'ex vice sindaco di allora. Com'è possibile che lei sia sindaco nuovamente? Beh, certo, si è candidato e ha ottenuto la maggioranza, questo dal punto di vista tecnico lo capisco anch'io. Ma guardi, io intanto mi chiederei com'è possibile sciogliere così facilmente tanti comuni con la scusa, tra virgolette, delle infiltrazioni mafiose. Perché il problema è senz'altro un problema adesso nazionale. Ci sono dei casi dove effettivamente le amministrazioni comunali hanno dei collegamenti con le organizzazioni criminali. E allora in quel caso crederei che già la legge penale basterebbe per risolvere il problema. Invece ci si è inventati questo sistema, che peraltro è amministrativo, e che dà alta discrezionalità a chi opera, e in qualche caso si sconfina anche in un, come dire, in un'arma politica utilizzata contro avversari scomodi. Beh, lei ci sta dicendo, credo che questo sia capitato pure a noi, cioè che al Ministero dell'Interno ci sia qualcuno che veda di malocchio il politicamente. Ma no, guardi, non è il Ministero dell'Interno, poi alla fine tutto passa a livello locale per poi arrivare attraverso le prefetture sino al Ministro degli Interni. Guarda, le faccio un esempio. Noi è da 2 anni che attendiamo l'esito del ricorso fatto, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro lo scioglimento. Diversamente da tante altre amministrazioni comunali, sì, che hanno ricorso al TAR o credo anche al Consiglio di Stato attraverso appunto ricorso al Presidente della Repubblica, che hanno avuto dopo pochi mesi l'esito, noi dopo 2 anni ancora non avete visto. Abbiamo ragione. Solo. Però, questo sindaco, perché... mi perdoni, io so che la vicenda comporta anche personalmente per lei. Il Tribunale di Vibo Valentia aveva espresso una incandidabilità nei suoi confronti. Però la legge, sì, in Italia succede che si applichi in un modo quantomeno bizzarro, mi sembra di capire. Cioè, lei era incandidabile nel momento in cui c'è stato il pronunciamento del tribunale, ma era incandidabile per cosa? Per le prime elezioni successive alla pronuncia di incandidabilità. E le prime elezioni sono state quali? Le prime elezioni sono state quelle del 2012. Il primo turno elettorale è stato quello del 2012. Sostanzialmente è capitato anche a Vittorio Sgarbi, che è stato sciolto a Salemi. Sì. Il caso analogo. In sostanza la legge è questa, e purtroppo è così, e quindi bisogna applicarla. In sostanza la legge dice che gli amministratori responsabili, ritenuti responsabili e nominativamente indicati nella relazione del Ministro dell'Interno, peraltro nel nostro caso non è così, perché non si capisce chi siano questi amministratori responsabili, e dovrebbero essere dichiarati incandidabili su richiesta del Ministero degli Interni, sì, una richiesta che dovrebbe essere non tardiva, quindi senza ritardo, dice la legge, il Ministero dovrebbe attivare la procedura di incandidabilità. Il legislatore, è un po' tecnico, ma bisogna dirlo per tentare di far capire com'è la procedura, il legislatore ha previsto un procedimento celere, cioè il Tribunale di Vibo, o sì, il Tribunale insomma in primo grado civili, dovrebbero attraverso il procedimento celere in Camera di Consiglio, quindi sbrigarsi prestissimo, per Vittorio Sgarbi dopo 20 giorni è arrivata l'incandidabilità in primo grado, dovrebbero appunto dichiarare l'incandidabilità di questi amministratori. Per quanto ci riguarda, quel senza ritardo nostro è diventato 6 mesi, perché la procedura è stata attivata dopo circa 6 mesi. La prima udienza, da dicembre del 2011, che è stata la data dello scioglimento, è stata fatta. Ho capito, ma queste sono questioni tecniche. Ma lei, sindaco, non ha nessun tipo di imbarazzo, insomma, di spiegarlo, come dire, all'Italia, dire io ero sindaco di un paese che è stato, un comune che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Lei poi. No, ci mancherebbe. Non e adesso solo non ha imbarazzo. Conducendo una battaglia contro appunto tutta questa procedura, perché noi siamo stati ingiustamente colpiti da questo provvedimento. Non basta il fatto che il padre dell'allora vice sindaco sia stato coinvolto in quell'operazione, perché il padre del vice sindaco con l'amministrazione comunale e col vice sindaco non aveva nulla a che fare. Non è mai stato provato, nemmeno in quel procedimento amministrativo che ha condotto allo scioglimento, che l'amministrazione comunale di Nardo di Pace abbia in alcun modo avvantaggiato l'organizzazione criminale presunta appunto a cui faceva parte, sì, il padre del, sì, vice sindaco. Però cioè, non è stato provato, è stato detto che è stato arrestato il padre e che il figlio era il mio vice sindaco. Certo, però sul fatto, vabbè, lei dice non c'entra nulla, però sul fatto invece dell'incandidabilità, lei dice l'incandidabilità io ce l'avevo, ma ce l'avevo per un'altra elezione. Il 2012 cos'è che si è votato, che non ricordo? Sei votato... Elezione amministrativa in Calabria, perché la legge dice che sei incandidabile, devi essere dichiarato incandidabile al primo turno elettorale. Ho capito, ma al primo turno, cioè sembra un po' come al Monopoli, cioè passa un turno, cioè fermati un turno, poi dopo lei è tornato candidabile. Dopo... E la legge è proprio questa. È la legge è questa, cioè incandidabile... Perché lo scopo della legge è non farsi candidare alla prima elezione successiva. Alla prima elezione successiva, dalla vuol seconda dire, va tutto ti sciolgo bene. Da un comune e entro in un altro, insomma, questo è... questo è. Allora, rimanga con noi, sindaco, Lirio Abate, si può iniziare a raccontare da qui, poi dopo ci raggiungerà anche dopo le 8.30 Maria Carmela Lanzetta, una donna che è stata sindaca a Monasterace, ha molto combattuto e ora si sente anche molto disillusa da questa sua battaglia politica. Lirio, possiamo iniziare da qui a raccontare anche uno spaccato d'Italia? Si può raccontare da questa visione molto molto ristretta, magari un piccolo comune in provincia di Vibo Valentia? Beh, vedete quello che accade, cioè perché si possono un po' raccontare tutte le pastoie burocratiche, ma fa di fatto che comunque c'è sia un'inchiesta della Procura Antimafia di Reggio Calabria che anche quella di Catanzaro che metteva in mezzo, comunque tirava in ballo gli amministratori del comune di Nardò di Pace. Adesso non voglio essere un giustizialista o altro, però sta di fatto che la politica è politica e la gente dovrebbe in qualche modo eleggere o comunque preferire personaggi che erano distanti dall'andrangheta o che comunque non avevano avuto a che fare con personaggi vicino alle cosche. E il problema è che, voglio dire, il sindaco sì, dà perfettamente, non nulla da dire a Romano Loiello, ma la gente del suo paese avrebbe dovuto, dopo un'esperienza del genere, scegliere altri candidati. Purtroppo così non è. C'è un esempio lì in particolare in Calabria che è datato, che è degli anni Ottanta, in cui si candidò in una lista civica in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Limbadi, che è vicino al paese del sindaco, un capomafia. Era Francesco Mancuso, che nel frattempo morì ed era anche latitante, fra l'altro. A seguito di questa elezione, il mese successivo il Consiglio Comunale di Limbadi fu sciolto con decreto del Presidente della Repubblica. E lui, questo capomafia, che era latitante, eccetera, fu il primo degli eletti in quel comune. E questo per farvi capire come funziona in quelle zone, insomma, l'amministrazione o l'influenza sugli elettori. Il sindaco dice: bene, ci sono le pastoie burocratiche, non sono arrivate a darci una sentenza di primo grado, eccetera, ma insomma, è quello. Avrebbero dovuto dare dei segnali diversi. Vabbè, però quello lui se è proposto ai cittadini, lei sindaco Loiello è d'accordo sul fatto che i suoi cittadini avrebbero dovuto voltare pagina, se non altro per non associare quello scioglimento per mafia a una nuova avventura politica? Beh, guardi, evidentemente se i cittadini hanno votato con un consenso amplissimo rispetto a quello della volta passata, e significa che effettivamente comprendono che una ingiustizia era stata fatta nei nostri confronti. Noi, la nostra amministrazione è un'amministrazione di giovani trentenni e quarantenni che dopo decenni di amministrazione passata abbiamo dato veramente una svolta a questo comune. Mai ci aspettavamo che cadesse un caso di quel tipo. Evidentemente i cittadini hanno ragionato anche su questo. Hanno ragionato su questo, dice, si fermi qui un attimo, c'è la pubblicità, ripartiamo tra un attimo con il sindaco di Nardò di Pace in provincia di Vibo Valentia, con Lirio Abate, ci raggiungerà anche l'ex sindaco di Monasterace, Maria Carmela Lanzetta, forse ve lo ricordate, una persona farmacista di paese, di tradizione, di famiglia, che ha detto a un certo punto: mi tolgo la fascia da sindaco e non combatto più. Poi ci sono state le aiuti, le parole vuote delle istituzioni, di vicinanza, certo, di gonfie di retorica come avvengono in questi casi. Il risultato è che Maria Carmela Lanzetta dice: il sindaco non lo farei mai più in vita mia, mai più, mai più ci penserei neanche mezzo secondo. Tra un attimo. 24 mattino. Allora, eccoci qua, le 8.36 minuti. Io, quando si trattano questi temi, quando parliamo anche del Sud, non vorrei che arrivassero i messaggi come invece del tenore che arrivano, e molti messaggi, e lo dico sia Lirio Abate, inviato dell'Espresso, sia al sindaco di Nardo di Pace, Romano Loiello. Sono messaggi del tenore: per il sud non c'è speranza, bisogna commissariare tutti gli organi elettivi, per esempio ci scrive Filippo da Venezia, oppure un altro ascoltatore: in quelle zone si vive con il solo punto di riferimento delinquenziale colluso con la politica, ci scrive un altro ascoltatore via SMS. No, non voglio pensare che sia così. Intanto voglio anche salutare Maria Carmela Lanzetta, che è stata sindaco di Monasterace in provincia di Reggio Calabria. Buongiorno Lanzetta. Buongiorno. Qua. Oggi fa la farmacista, come è da tradizione, credo, familiare, no? Da anni. È così, Lanzetta? Sento poco. Sì, fa la farmacista oggi, come da tradizione, sì, familiare. Sì, sì. Senta, lei ha detto di recente, dopo la vicenda che l'ha riguardata, si è tolta la fascia di sindaco, si è dimessa, dice: il sindaco non lo farò mai più. È davvero così? Io credo che ormai sia un'esperienza già finita, e quindi come sindaco di Monasterace sono stata eletta già due volte. E quindi per adesso credo di non riprovarci, almeno a breve. Beh, è già una cosa diversa. Le istituzioni che cosa le hanno regalato? Io ho detto parole vuote. Io non la sento molto. Io provo, non la sento. Più che urlare non posso. Non riesco a sentire. Proviamo magari a richiamarla. Proviamo a richiamare, magari le linee sono un po' disturbate. Lirio Abbate, i messaggi che arrivano sono di questo tenore. A me dispiace, ma insomma, quando si parla di questi argomenti, l'idea è questa: dire ma il Sud è abbandonato. Lo dico proprio nel giorno in cui oggi il Corriere della Sera fa un'anticipazione del libro che uscirà a firma di Stella e Rizzo tra due giorni, dal titolo Se muore il Sud. Lirio. Guarda, non dobbiamo naturalmente fare di tutta l'erba un fascio, ci sono amministratori e ci sono realtà politiche e amministrative in Calabria che sono veramente un fiore all'occhiello. Il problema qui è altro, il problema qui è magari nella società, o se vogliamo ridarla, come diceva prima il sindaco, un fattore burocratico, allora andiamo a vedere la legge per lo scioglimento dei consigli comunali. Non ne inibiamo soltanto i politici a ricandidarsi, ma una volta sciolti i consigli cerchiamo di far ruotare, o comunque di togliere quei capi degli uffici tecnici, quei burocrati, che poi sono loro quelli che fanno muovere le pratiche. Tutta quella zona grigia che insomma... Tutta quella zona grigia, perché quelli sono quelli che restano al loro posto, poi arriva un nuovo sindaco o anche un commissario che per 3 anni fanno di tutto, e diciamocelo chiaro, per non farti fare nulla. Sì, certo, tu dici: se il dirigente dell'ufficio tecnico di un comune è colluso con la criminalità organizzata e per questo fa i piani regolatori favorendo, che cosa può fare il sindaco che arriva se non lo può sostituire, se quel dirigente rimane lì? Sì, dovrebbe concentrarsi lì una nuova legge o qualcos'altro, perché la macchina burocratica la conducono loro. Il sindaco o il nuovo sindaco che arriva è nelle loro mani. Questo anche certamente. Anche il commissario scelto dal prefetto è nelle loro mani, per cui a questo punto si dovrebbe rivedere bene tutta la legge per lo scioglimento. Allora, intanto vediamo se Lanzetta adesso mi sente meglio. Abbiamo adesso mi sente. Io ho detto che nel annunciare la sua presenza, che dalle istituzioni sono arrivate soprattutto parole vuote di fatto e dense e gonfie di retorica, ma poi non hanno portato a nulla. Lei condivide oppure è stato troppo impietoso? Allora, guardi, io soprattutto dopo la seconda elezione, ma anche durante la prima, comunque durante la seconda, trovandomi a parlare con forza, spessissimo sono stata ospite al Viminale, avevo chiesto in diversi settori delle istituzioni una struttura tecnica che andasse ad aiutare i comuni in difficoltà, che non doveva essere soltanto una forma di interesse dello Stato verso il mio paese, verso Monasterace, ma in tutti quei paesi una struttura super partes che andasse ad aiutare per 6 mesi, 1 anno, 1 anno e mezzo, finché ci fossero determinate questa criticità nell'andamento del comune che potesse aiutare quel comune in difficoltà ad uscire da determinati problemi e quindi avere la possibilità di appoggiarsi a qualcosa di esterno per far andare avanti i progetti che era importante che andassero avanti. E l'hanno ascoltata, le hanno dato qualche promessa? Non è stato possibile, non hanno fatto in tempo, nel senso che mi era stata, diciamo che si era concluso questo iter soltanto alla fine dei 20 giorni delle mie dimissioni nel mese di luglio e quindi ricominciare senza la certezza e poi con quello che era capitato, insomma io mi sono dimessa per una questione molto particolare legata alla giunta, quindi legata ad una persona della giunta, quindi non mi ha consentito di poter verificare se questa cosa ha sentito anche Liria Abbato, lei si è dimessa proprio perché un assessore ha votato contro la costituzione di parte civile nel processo da parte del comune dove era coinvolto un tecnico comunale. È un po' quello che si diceva prima con Lirio Abbate, cioè se un sindaco poi politicamente non può fare nulla, se in ipotesi un qualcuno colluso con l'andrangheta in questo caso all'interno del comune, che cosa può fare un sindaco se non può rimuoverlo, per esempio? Allora io l'ho rimosso, ho cominciato a fare il sindaco nel 2006 e già nel 2007 avevo cambiato capo ufficio tecnico e io non ho avuto la possibilità di poter fare un concorso e concludere per sempre questo iter perché per quanto mi riguarda ho rimosso varie volte il capo ufficio dell'ufficio tecnico, quindi io questa cosa l'ho fatta, soltanto che i tecnici esterni che venivano al comune di Monasterace rimanevano dai 3 ai 6 mesi, la persona che è rimasta di più è durata un anno e poi tutti mi presentavano le dimissioni dicendo che la più grande disponibilità verso il sindaco in qualsiasi momento, che però non avrebbero più voluto continuare l'incarico di capo dell'ufficio tecnico del comune di Monasterace. Adesso c'è la presidente della commissione antimafia, Rosy Bindi, è stata anche eletta in Calabria. Lei l'ha sentita? Mai sentito una vicinanza? Ho già espresso quello che pensavo sull'articolo di Repubblica. Io non ce l'ho sotto mano. Sono sempre aperta a. Io non ho nessun ruolo politico, non ho nessun ruolo amministrativo. Però come persona che vive in questo territorio e che ha un'esperienza notevole per aver guidato per 7 anni e mezzo un piccolo comune della fascia ionica Regina, sono sempre disponibile a dare il mio piccolissimo contributo qualora venga richiesto. E per ora non è successo questo. Non è successo. Sindaco Lo Jelo, ha sentito sindaco di Nardo di Pace. Lei che ne pensa di questa vicenda anche delle persone magari che sono colluse all'interno del comune? Lei ha cambiato qualcuno? Ha mai avuto a che fare con problemi all'interno del comune da parte dei dirigenti? Siete un comune molto piccolo per la verità. Guardi, noi all'insediamento dobbiamo dire che la legge prevede le modifiche dei dirigenti o dei responsabili, perché è proprio competenza del sindaco insediato sostituire i responsabili dei servizi nei piccoli comuni o i dirigenti nei comuni grandi. E noi questa riorganizzazione l'avevamo fatta. La cosa strana è che benché la legge sugli scioglimenti preveda addirittura la rimozione, il licenziamento dei dipendenti che si rendano responsabili di questa infiltrazione, non solo con noi è avvenuto solo lo scioglimento dell'organo elettivo senza alcun provvedimento nei confronti dei dirigenti o dei dipendenti comunali, magari ritenuti coinvolti, visto che le infiltrazioni non passano solo attraverso i politici, evidentemente, ma devono necessariamente, per una questione di competenza, passare attraverso i burocrati. Bene, sono stati riconfermati tutti dalla commissione straordinaria, quindi queste sono quelle cose che ti lasciano un po'. Dice ancora perplesso per la questione dello scioglimento che c'è stato. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ci sono anche gli ascoltatori. Riparto anche da Lirio Abbate, dal suo libro, visto che nel suo libro nel sottotitolo è come le donne salveranno il paese dall'andrangheta. Qui c'è una donna, Maria Carmela Lanzetta, che ha fatto il sindaco di Monasterace, che insomma ha finito l'esperienza più con amarezza che con altro, questo mi sembra di poter dedurre dalle sue parole. Ripartiamo tra un attimo. Eccoci qua alle 8:48 minuti. Allora, due ascoltatori, Francesco da Milano. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Che pensa? Allora, io penso che questo resta un paese di sudditi, borbonico, e mi sia concesso anche papalino. Perché dico questo? Ma perché questa gente viene rieletta? Qualcuno la rielegge, e la rielegge per il semplice motivo che la distanza fra il paese reale e lo Stato, e questa è una banalità, è diventata abissale. La gente preferisce avere lì una persona che conosce, anche se la conosce per i suoi lati peggiori, piuttosto che riconoscersi in uno Stato onesto e serio. Questa è la verità. E dobbiamo averne veramente la coscienza. Ti rende conto che quello che sta dicendo il sindaco Loiello è esattamente quello che dice Berlusconi a proposito della sua sentenza? Vediamo un po', la sta ascoltando, sindaco Loiello? Lei fa come Berlusconi, cioè non prende atto di una situazione? Guardi, i luoghi comuni in Italia, di luoghi comuni si è pieni. Io ricordo a quell'ascoltatore, ma anche a chi lancia delle accuse contro il Sud, che anche Milano è stata coinvolta in quell'operazione, anche la Liguria, la Lombardia. Sì, ma infatti non facciamo una questione geografica. Quindi anche lì ci sono stati comuni sciolti e così via. Io dico che prima di parlare, di spingersi a fare queste considerazioni, o magari paragonarmi a Berlusconi, bisognerebbe conoscere la questione seriamente, la questione locale. Perché non tutto quel che appare è sempre la verità, non perché il Ministero degli Interni avvia questa procedura ha sempre ragione. Evidentemente può capitare che magari fra qualche mese, fra qualche anno, il Consiglio di Stato dia ragione a noi. E allora che significa? Che noi dovevamo abbassare la testa di fronte a delle ingiustizie? Sì. Credo proprio di però, no. Però mi scusi, mi risulta, è vero che io e i miei amministratori non abbiamo nulla da nascondere, nulla peraltro da rimproverare. Però mi scusi, sindaco, è vero che pende anche su di lei una richiesta di via giudizio per reati di abuso d'ufficio? È falso? Così leggevo su un'agenzia. Sì, su un procedimento che però al TAR, sia in primo grado che al Consiglio di Stato, sono state dichiarate perfettamente legittime le procedure. Solo che contemporaneamente la ditta perdente fece, oltre che ricorso al TAR, anche denuncia penale. Il procedimento penale è stato corso, molto più lungo e siamo ancora... Quindi lei dice di fronte alla lungaggine della giustizia non si capisce perché... Però questa storia dell'incandidabilità è evidentemente un po' bizzarra. Cioè lei era incandidabile per la prima elezione successiva a quella dello scioglimento, cioè le regionali in Calabria, poi si è fermato un giro, diciamo, ed è tornato candidabile. Due giri, perché le seconde elezioni in Calabria sono state anche nel 2013, turno ordinario. Dico che la legge è anche bizzarra. La legge sicuramente è bizzarra. Solo nella stessa regione di appartenenza. Fatemi prevede sentire l'incandidabilità sino alle elezioni regionali, ma non al Parlamento. Fatemi sentire esempio. Anche Mario da Cosenza. Mario, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per fare capire la situazione, innanzitutto bisogna considerare il fatto che ormai qui le organizzazioni criminali sono ormai 2.0, nel senso che non hanno più la coppola e la lupara come spesso vengono dipinte nei film, ma ormai sono i figli, i nipoti dei vecchi capibastoni con le lauree, e quindi ormai si fa difficoltà a capire chi sta da una parte e chi sta dall'altra, ed è ovviamente drammatico. Uno. Due, da cittadino onesto che lavora tutti i giorni, eccetera, eccetera, non riesco a capire perché quando c'è da colpire, da fare leggi che a nostro avviso, penso di parlare a nome di tutti i cittadini, sono così semplici, cioè un amministratore è stato per carità massimo della garanzia, giudicato primo, secondo, terzo grado, eccetera, eccetera, stata condanna, non deve più mettere piede negli uffici, non deve amministrare la cosa pubblica. È una cosa così lineare, lampante, non capisco dove sia la difficoltà. Sì. Ma come? Se in Italia devo prendere il bagnino, c'è bisogno che abbia 700 certificati, poi metto lì la persona che deve amministrare la cosa pubblica, che magari fa le leggi. Vede, il paese è un paese un pochino bizzarro e strano, come dice lei. Grazie Mario da Cosenza. Allora Lirio Abate, nel libro tu dici le donne salveranno il paese dell''ndrangheta. Qui c'è una storia, ovviamente ne racconti tante, ma quella di Maria Carmela Lanzetta, come la giudichi, come la storia di una sconfitta, cioè nonostante tutto l'impegno che ci abbia messo ha dovuto poi in qualche modo cedere? Lei ne esce come una grande persona, di una grande personalità. La dottoressa Lanzetta ha fatto di tutto per tirare fuori e far emergere quel paese dagli attacchi alla criminalità organizzata, da tutta una serie di infiltrazioni. La cosa che mi ha fatto molto rabbia a luglio, quando lei ha annunciato le dimissioni, e le ha annunciate proprio perché, appunto, come diceva prima, un suo assessore in giunta si è rifiutato di firmare o comunque di votare una delibera che era la costituzione di parte civile per un imputato, un dipendente imputato per mafia, eccetera, nessuno del proprio comune è sceso in piazza, ecco, sceso in piazza a protestare o a dire sindaco resta al tuo posto. Sono arrivate le solidarietà, possono essere formali, facciate, eccetera, da tutto il resto d'Italia. Da quel comune non si è mosso nessuno, da quel comune la gente è rimasta lì a casa a dire vediamo quando finalmente deposita le dimissioni, perché un sindaco così che voleva fare, che era fuori dal comune, non può restare ad amministrare. Cioè, è questo il senso della sconfitta quando io dico le parole vuote delle istituzioni, o no, Lirio? Perché questo è il senso, no? Cioè, che senso ha dare solidarietà dal capo dello Stato alle persone? Però poi, appunto, è una solidarietà che rimane vuota, o no? Rimane vuota perché non riesce a coinvolgere nemmeno la gente del proprio paese. Perché in quel momento lì in cui lei ha annunciato, detto perché voleva andare via, e c'erano ancora i tempi per farla arrestare, nessuno si è mosso. Sì, nessuno del proprio comune si è mosso. Sì, la stavo chiamando sindaco per un riflesso. Dottoressa Lanzetta, lei condivide questa analisi? Cioè, si aspettava dal suo paese? E cosa si aspettava dai suoi compaesani? Allora, io faccio un passo indietro e dico che una persona che si propone a fare il sindaco e viene eletto, nel corso della sua azione amministrativa, soprattutto a fianco al lavoro per far osservare le regole, mette a fianco il comportamento, i comportamenti. Sì. Quindi io ci credo moltissimo. Il personaggio, mi aggancio pure a quello delle due telefonate, al succo del discorso delle due telefonate, una persona che amministra, soprattutto in un periodo come questo in Italia di grandissima difficoltà e di grandissima confusione, dove non si sa distinguere il bene dal male, io penso che bisogna con forza sempre stabilire una linea di demarcazione e dire io sto di qua, sì, tu stai di là, cioè veramente con grande forza. No, è chiaro, chiedere alle persone di stare insomma, di schierarsi, perché ci sono appunto alcuni temi nei quali non si può essere grigi, uso l'aggettivo che abbiamo usato prima anche per molti dipendenti. Vi ringrazio, mi devo fermare, grazie davvero a tutti, ricordo di Lirio Abbate anche il libro Femmine Ribelli, e l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6.30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Regali Fedon.it, quelli indimenticabili. Fedon, dal 1919. Vi ha presentato 24 Mattino.